Eccoci qua, sempre Senza Frontiere, seconda parte dell'intervista a Laura e a Leonard sulla Palestina, con Laura appunto che ci dà ulteriori notizie, ulteriori specificazioni rispetto a quello a cui ha parlato precedentemente. Come vi ho già detto prima, io sono attivista in due associazioni, nell'Operazione Colomba e in AssoPace. Noi, siccome io sono un ex insegnante, naturalmente tengo molto alla scuola, alla cultura, e allora il progetto di Tuani è per accompagnare soprattutto i bambini a scuola. E poi come AssoPace noi sosteniamo un asilo, l'abbiamo fatto aprire, abbiamo aiutato ad aprire questo asilo a Al-Masara, a sud di Betlemme. Se andate sul sito di AssoPace, magari lo vedete, potete anche da qui dare una piccola mano, perché i volontari che vanno a Tuani, come me, non è che sono pagati, ma pagano per andare. E quelli che ci stanno un po' di più sono pagati da noi che ci stiamo meno 100 euro al mese. Quindi niente. L'Operazione Colomba è un'associazione molto povera, ma che fa delle cose molto importanti che le potete vedere sul nostro sito. E AssoPace è un'associazione abbastanza povera, un po' meno però di Operazione Colomba, ma che fa delle cose meritorie. Ringraziamo Laura per questa precisazione e soprattutto vi invitiamo appunto a visitare il sito delle due organizzazioni e appunto rispetto a quello che c'è scritto, rispetto a quello che vi invitano a fare, di farlo. E continuiamo con Leonard, gli volevamo chiedere, prima appunto ha messo in luce appunto di questa avvocatessa. In ebrea, e appunto volevamo chiedere come sono i rapporti, che rapporti ci sono con con le organizzazioni israeliane, gli abitanti di Israele, che sostengono o comunque sono partecipi a quello che succede, diciamo, al popolo palestinese. Bene, se tu sei d'accordo, volevo parlare anche della nostra collaborazione con organizzazioni ebraiche nel mondo. Allora, per esempio, noi collaboriamo con la rete italiana ECO, che si chiama Ebrei contro l'occupazione. Sono pochi ma molto attivi che sostengono la causa palestinese in Italia. Poi, a livello europeo, c'è European Jews for Just Peace, ebrei europei per una pace giusta. Io personalmente e altri collaboriamo con la GVP, che si chiama Jewish Voice for Peace degli Stati Uniti, e qui un particolare, e più tardi parlerò anche di un'azione e di un movimento che sostiene in maniera molto concreta la Palestina, che è il BDS, e poi vi spiegherò di più. Allora, siccome questa organizzazione ebraica degli Stati Uniti sostiene il boicottaggio di Israele, dei prodotti israeliani, degli eventi culturali, sportivi, per pulire la coscienza sporca di Israele, a loro, agli attivi del BDS e di questi ebrei americani, e anche a noi, adesso non viene più concesso l'ingresso in Israele. Qui c'è una cosa molto strana. Allora, ebrei che avrebbero il diritto non soltanto di entrare in Israele, ma di avere la cittadinanza israeliana, allora non viene nemmeno concesso l'ingresso. Una donna rabbina, sempre della stessa organizzazione, recentemente che è arrivata, che voleva entrare in Israele, all'aeroporto all'aeroporto in Israele Ben Gurion, è stata mandata indietro, la prima volta che succede una cosa tale. Poi in Israele, con chi collaboriamo? Noi collaboriamo con il cosiddetto Alternative Information Center, il centro alternativo di informazione, Michel Warschawski, che è stato recentemente a Firenze. A novembre abbiamo fatto un congresso per ricordare appunto 100 anni della dichiarazione di Balfour e 50 anni dell'occupazione della Cisgiordania. Poi c'è un'altra organizzazione devo precisare, questo Alternative Information Center, il coordinatore è israeliano, ma lavorano anche palestinesi dentro, e questa è una cosa molto positiva che trovo io. Poi c'è l'organizzazione B'Tselem per i diritti umani, che si occupa soprattutto anche dei prigionieri, che hanno pubblicato un rapporto sul maltrattamento dei palestinesi, che io con me l'ho tradotto, si chiama Con avallo del sistema, maltrattamenti e torture dei palestinesi nei centri di detenzione. Indubbiamente anche con le donne in nero, le donne, e poi se c'è Ha-Mohet, è un'altra organizzazione palestinese israeliana. Quindi non c'è un rifiuto, anzi una forte collaborazione, per esempio anche con gli anarchici contro il muro ed altri. Dove sono dislocate queste organizzazioni all'interno di Israele? Sono nelle grandi città oppure sono, come dire, nei villaggi? Sono soprattutto nelle grandi città. Allora, in Israele sono a Gerusalemme, sono a Tel Aviv, recentemente ci sono filiali, possiamo dire, anche in Cisgiordania, per esempio a Betlemme, oppure i loro attivisti vengono, come ha detto prima Glauber, fine settimana, soprattutto venerdì, quando ci sono tante manifestazioni, vengono ad assistere, aiutare ai checkpoint, controllare sempre ai checkpoint se tutto è in regola, perché qui ci sono comportamenti proprio indescrivibili da parte dei soldati, come trattano i palestinesi. Io volevo poi anche aggiungere che cosa possiamo fare qui, perché abbiamo parlato che cosa succede giù. La situazione, come detto, peggiora giorno in giorno. Sempre su questo manifesto che ho qui, è due stati, due popoli, un'illusione. È proprio un'illusione, perché dopo i trattati di Oslo nel 93 ci hanno voluto credere che adesso incomincia la pace per Israele, ma Israele non ha mai rispettato gli accordi. Come sono, per esempio, io arrivato a diventare un sostenitore della Palestina? Indubbiamente già prima eravamo sensibili. Nel 2002 a Firenze, in una casa del popolo, c'è stata una serata per la Palestina. Presente il segretario, al suo tempo segretario dell'ambasciata palestinese lì, e Mariano Mingarelli, che ora è il nostro presidente onorario dell'Associazione dell'Amicizia Italo-Palestinese. Nel 2002 la nostra associazione non esisteva ancora, ma si faceva già tanto, soprattutto dal punto di vista socio-sanitario, aiutavamo la gente giù. In quell'occasione parlò un nostro, che chiamo io compagno prete, Abuna, un prete della comunità melchita che da qualche anno è tornato in Cisgiordania. Lui è anche docente della storia medio orientale. E che cosa diceva? E devo dire, non che ero scioccato, non volevo crederlo. E ha detto: il problema nel Medio Oriente, me lo sono riscritto qui, non è l'OLP o Hamas, è Israele. Ho detto: ma? E poi mi sono sempre più occupato di questo problema, che è anche vero. Assieme a Bush padre, e già prima, c'era questo grande progetto di trasformare il Medio Oriente, di frantumare il Medio Oriente, di non dare mai uno Stato alla Palestina. Purtroppo la stampa italiana, soprattutto la RAI, non informano correttamente. Poi tra l'altro c'è la disinformazione israeliana, la pressione dell'ambasciata israeliana quando noi e altri facciamo delle iniziative, e c'è una grande lobby italo-israeliana. Se parliamo di cose concrete, successe l'altro ieri o ieri, governo Renzi, il governo che aveva più rapporti con Israele era il governo Renzi, con il suo grande amico Karai, che ha grandi interessi economici in Israele. Se Karai fosse diventato responsabile della cyber security nel governo Renzi, avremmo avuto il governo israeliano non con un piede, ma con due piedi anche nel governo italiano. Perciò dico, tutti noi possiamo fare qualcosa. E che cosa? Informarsi. Ci sono siti, devo anche menzionare, Michele Giorgio scrive ogni due giorni la Cruciati sul manifesto, e noi direi, quando siamo noi informati, abbiamo anche, direi, un dovere, scusate che ve lo dico così. Che significa? Informare altri sulla situazione. C'è una grandissima ignoranza a giro, ma non parliamo di colpe. Ignoranza può essere una cosa molto semplice: non siamo informati. Allora, ignoranza nel senso letterale del termine. Sì, appunto. Ignorare. Ignorare. Non siamo sensibili. Allora dobbiamo anche trovare la verità. Diffondere l'informazione, quello che abbiamo trovato, la situazione attuale. Vuol dire impegnarsi e sensibilizzare altri. Così è un po' trasformato le famose parole di Gramsci. No? E poi partecipare alle iniziative. Noi, sia Sopace che la nostra associazione e altri, a Firenze facciamo, si può dire, una volta al mese o due volte ogni 2 mesi facciamo un'iniziativa. Boicottare. Io faccio parte di un'organizzazione che si chiama BDS, che viene dall'inglese Boycott, Disinvest e Sanctions, che significa boicottare, disinvestire e sanzioni, che significa boicottare i prodotti israeliani, soprattutto quelli che vengono dai territori occupati. Ciascuno di noi ha la possibilità. Questo è un movimento nato ormai 12 anni fa nella società civile palestinese, che ha avuto con grande difficoltà, ostacoli, una diffusione, possiamo dire, mondiale. 140 o di più organizzazioni mondiali, premio Nobel, associazioni, personaggi come Ken Loach, come Roger Waters, il cantante dei Pink Floyd, loro sostengono la causa. Allora, boicottare i prodotti. Ciascuno di noi ha la possibilità. Se voi andate anche alla cosiddetta Rossa Coop, trovate, ora un po' di meno, nella frutta, verdura, trovate i prodotti israeliani. Non comprateli e in altri supermercati è peggio. Che cosa abbiamo fatto noi? A Firenze esiste il BDS almeno dal 2010, noi nel 2012 abbiamo avuto un piccolo successo. Abbiamo visto che nei supermercati, nei punti di vendita della Coop, vendono Soda Stream, che è un apparecchio che fa le bollicine nell'acqua. Innanzitutto non è detto che quest'acqua fa meglio dell'altro, ma comunque ciascuno ha il suo gusto. Questo Soda Stream viene prodotto nei territori occupati, c'è la sede centrale e qui potremmo raccontare altre cose, che le scorie vengono poi buttate verso il paese palestinese vicino e così via. E allora noi abbiamo raccolto più di 500 firme contro la Soda Stream nei punti di vendita della Coop. Siamo andati dal presidente e da un altro signore e abbiamo ottenuto, siccome loro hanno contratti ci hanno detto per tanti anni, almeno non hanno potuto, così hanno detto, ritirare il prodotto, ma hanno inserito un prodotto alternativo che è competitivo, quindi questo abbiamo potuto fare. Poi donne, non comprate i cosmetici, soprattutto quelli di Ahava e Sabon, che mettete in faccia. Se volete questi prodotti, esistono anche prodotti in Italia che vengono dalla Giordania, sono altrettanto buoni. L'altro, non comprate mai i parafarmaci della Ratio Farm, perché la Ratio Farm fa parte del gruppo Teva, che è il gruppo a livello mondiale più grande che vende medicinali, soprattutto quelli alternativi. Questi sono alcuni esempi. C'è un elenco? Sì, sì, abbiamo l'elenco. Poi noi boicottiamo anche le aziende che sostengono l'occupazione, che guadagnano l'occupazione, per esempio HP non soltanto è la stampante, loro sono responsabili del sistema di sicurezza, del sistema di riconoscimento tramite il controllo iride e così via. Quindi tutti noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa di concreto. Poi, boicottate gli eventi culturali. Voi non sapete quanti milioni investe Israele per il cosiddetto brand Israel, per pulire, per presentarsi bene al mondo. E quindi quando c'è stata la Noemi, la cantante, qualche anno fa, al Piazza Michelangelo, noi abbiamo protestato, abbiamo volantinato perché lei ha sostenuto uno degli attacchi precedenti all'ultimo del 2014, quindi questo non perdoniamo. Poi boicottiamo gli eventi sportivi. Il nostro compagno Claudio l'ultima volta ha parlato del Giro d'Italia che, guardate bene, inizia e le prime tappe si svolgono in Israele, partendo da Gerusalemme, Est, che è internazionale. Ci sentiamo prima un altro pezzo musicale, Sharia Mansour con Colon and Dabahat. كلنا عندهم دبابات احنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا فلسطينه يا مرضى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستشفيون عداء صهيونية الإرهابية عنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال أم قبلنا في قصد ورد التجاهل ستين عام تحشروا هالشعب تتآمروا عالشعب تقاتلوا هالشعب اتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل أم العالم سوا بين الدم أم عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وأنا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولولنا قرار أمم احترم بنحترم يقولولهم قرار أممي أم يحزب بالزبالة تخزوهوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية وانا كل ربيدي والحال شعرهم شاب الزواد بافكارهم هافزات وقع بالالف وقعوا بحب الراب بيعملونا كسرطان عندهم بالقلب ايديهم مش قادر تسلم لان صفيعهم على الفرد يا ابن العره كنا غزهم بالعزه الناس زي كل الناس في احساس مش حماس ولا عباس لما شفت غزه انا شفت حالي شفت اطفال تتيتم من اي ضر مع الاهلي اطفالي تموت وانا ابكي افتش على اولادي شفت نسوين تطفى حضانه اختي استشهدت معلي استشهد لاني شفت اخرتي ولما شفت المقاومه انا كنت بدي بس واقعي نصحني اتجه لعالمي من الاخر لو بينهم انا عاجز لا دافع عن نفسي وبالنسبه لهم تحت الحرب لعبه نينتندو شايفيننا نقط مالي اذا ما انا رقم بيعدات شو الثقه بيعرضوها كدفاع عن النفس هل هتخبى ام استعلاء والله مالي نفس اعبر عن رايي بلاش يسدوا انهم ديمقراطيه غير محطه زعيم عربي مخطب غير الحطه اللي بيسمعني فكر انه كان لي توقع عشو متعشم اليوم اللي فيه زعمائنا بيبدوا ياخذوا موقف ببدا اسكت عميان فرص لاول مره الشعب بالشارع مخلول واقف بيظاهر وانتوا على الكرسي قاعدين مين المشلول شو اقول الله يساعد غزه وبكره يساعدنا شو اقول اطفالي يابا ما حدش وقف جنبنا يا قائد العرب جاهزه يا بتعزل يا بتنجزها في فراغ سياسي ومطلوب فحل صاحب كاريزما كلنا عندهم دبابات احنا عنا حجار Che cosa possiamo fare, dicevo, facendo non a caso riferimento a Gramsci. Boicottare questo menzionato, sostenete il BDS, poi denunciare, ho detto qui, che cosa significa? Denunciare la collaborazione scientifica tecnico-militare tra Israele e Italia. E noi come governo precedenti siamo dentro fino al collo. Sono state varie iniziative a livello universitario a Firenze un po' di meno, molto attive per esempio c'è l'Università di Torino e anche Bologna. E poi che cosa vogliono fare? Vogliono far credere all'opinione pubblica che noi come attivisti, noi fossimo antisemiti. Noi siamo antisionisti perché il progetto sionista è stato sin dall'inizio, anche io ho dovuto ristudiare tutto, sin dall'inizio un progetto imperialista, un progetto coloniale. A noi da ragazzi hanno voluto raccontare un po' in maniera filosofica la storia dei kibbutz, i primi, il vero comunismo, e lì invece sicuramente ci hanno stati alcuni kibbutz che si sono fermati lì, ma in realtà è stato sempre un progetto espansionista. Io posso raccomandare la lettura di un libro che è molto interessante, che denuncia sin dall'inizio questa strategia espansionista e imperialista da parte di Israele, che si chiama Vivere con la spada di Livia Rokach, dove un ex ministro racconta nel suo diario quello che hanno loro, potremmo dire, combinato. E dentro ci sono anche figure generali israeliani che poi sono diventati presidente del Consiglio, come Sharon, c'è Moshe Dayan e altri. Sapete che è un'altra cosa interessante che tanti non sanno, che non esiste una, chiamiamo, codificazione del confine israeliano. Non esiste da nessuna parte. Quando una volta Moshe Dayan fu intervistato e ha detto il confine di Israele sarà dove arrivano i nostri cari amati. E questo del 67 è rimasto. Un altro libro fondamentale è di Ilan Pape, La pulizia etnica. Questo è proprio, potremmo dire, la Bibbia che ciascun attivista o sensibile alla causa palestinese dovrebbe studiare. Allora, a Firenze, è stato già detto, chi opera si è fondato a Firenze una, possiamo dire, un'unione di tutte le associazioni in Italia che fanno qualcosa per la Palestina, attivisti per la Palestina, che la nostra associazione di amicizia italo-palestinese. Trovate ogni settimana le news proprio fresche dalla Palestina. Raccomando questo sito, www.amicizia, amicizia-italo-palestinese.org. Noi esistiamo dal 2004, fondato appunto a Firenze, non abbiamo una sede fissa, facciamo le nostre riunioni in varie case del popolo e poi le nostre iniziative che possono essere film anche alla libreria dell'Isolotto, presentazioni di libri anche lì, facciamo poi attività anche socio-sanitaria, vuol dire sosteniamo un ospedale a Betlemme e l'adozione a distanza, nonché sosteniamo bambini soprattutto nei campi profughi nel Libano. Un altro sito che raccomanderei è Nena News, N-E-N-A, Nena News di Michele Giorgio, che è proprio un sito aggiornatissimo. Che poi mi sembra sia il Northeastern News Agency, no? Agenzia di notizie Medio Oriente. Mente. Poi se c'è la Sopace Palestina, e in questa organizzazione Unità di Società Civile Palestina c'è anche Pax Christi e altri, quindi anche i cristiani cattolici si trovano dentro, anzi questo dobbiamo dire, Pax Christi soprattutto, quelli del Friuli con Don Landino hanno fatto sempre da decenni, fanno tanto tanto per la causa palestinese. Volevo anche menzionare i prossimi eventi. Avevo già detto il 30 marzo, giornata internazionale per la terra, il 31 pomeriggio saremmo in Piazza della Repubblica. Qualche giorno prima vogliamo recuperare la pedalata contro quella decisione dello start del Giro d'Italia a Gerusalemme Est e le prime tappe in Israele, perché per il maltempo abbiamo potuto farlo. E un'altra cosa che viene organizzata ogni anno, c'è allo Stenzen e nel cinema La Compagnia il Middle East Now Festival, e qui vengono fatti vedere dei film freschi dal Medio Oriente, ci sono anche film palestinesi, film israeliani fatti bene, e quest'anno una regista e attrice palestinese sarà ospite d'onore, quindi e lì sicuramente troverete anche i nostri volantini. Sì, mi ha dato lo spunto per una domanda rispetto a un film che è uscito ultimamente e che, diciamo, ha provocato polemiche e discussioni, ecco, L'Insulto. Allora, se tu avessi fatto la domanda ad un libanese, magari non sarebbe molto, molto contento. Allora, io che sono stato nel Libano, conoscendo la situazione, io direi il film è fatto bene, in maniera intelligente. Devo dire comunque anche qualche palestinese, non i pochi compagni palestinesi che abbiamo qui, ma altri, non erano molto contenti, ma descrive molto bene, secondo me, la situazione nel Libano, che è tuttora così. Il film ha fatto vedere a malapena un po' dei campi profughi di Sabra e Shatila, lì c'è una situazione indescrivibile. D'altra parte i palestinesi nel Libano non possono svolgere, se non erro, mi auguro che la mia cifra è aggiornata, 64 professioni. Chi ha visto il film e il protagonista ingegnere, che non può svolgere l'attività dell'ingegnere, ma ha fatto capo cantiere, e già tanto. Io ho conosciuto dei ragazzi laureati in commercio, ma appena possono fare l'amministrativo. Altri fanno lavori manovali e così via. Quindi nel Libano è rimasto, Libano ha una storia molto, come posso dire, molto travagliata, no? La parte sud del Libano occupata da Israele, c'è il conflitto tra i cristiani e i musulmani, i conflitti tra sciiti e sunniti, è una situazione da un lato particolare, dall'altro lato rispecchia un po' la situazione in Medio Oriente, dove una volta non c'erano i conflitti tra religioni. Questo è venuto soprattutto con l'istigazione da parte di Israele, dei loro servizi segreti, e dietro stanno sicuramente anche i servizi segreti americani. Ritornando a quello che diceva Leonard precedentemente, vi invitiamo appunto a seguire tutte le iniziative, a informarsi su quello che sta succedendo in Palestina e via dicendo, andando appunto sul sito www.amicizia-italo-palestinese.org. E vi salutiamo qui e vi ricordiamo Senza Frontiere, la trasmissione sull'internazionalismo, sul tema internazionalista di Radio Wombat, e va in onda tutti i lunedì e in replica dal martedì al venerdì, e inoltre potete ascoltare, riascoltare, ascoltare meglio, scaricare e riascoltare, insomma tutte queste cose qui andando sulla sezione podcast di Radio Wombat, sempre allo stesso indirizzo, sempre allo stesso sito, wombat.noblogs.org, dove appunto c'è il podcast, ci sono i podcast di Senza Frontiere e chiaramente i podcast di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Vi salutiamo, ciao ciao, ringraziamo Leonard. Grazie a voi, e se posso aggiungere, lunga vita del popolo palestinese, viva la Palestina e viva soprattutto la resistenza palestinese. Ciao ciao.